Letture di Radio 24. Lunedì scorso, davanti a una platea di oltre 7 milioni di telespettatori, Roberto Saviano ha attaccato Leonardo Sciascia, colpevole, secondo lui, di aver criticato Borsellino in un articolo scritto 23 anni fa. Ma Sciascia non ce l'aveva con Borsellino, precisa Matteo Collura sul Corriere della Sera. Semplicemente sosteneva la difesa delle regole, anche quando c'era di mezzo la mafia. Bene, finalmente Saviano lo ha detto. Si è liberato di un peso. Anche Sciascia, con quel suo siculo sottilizzare sulle regole e la libertà, ha finito per dare una mano al partito della delegittimazione di coloro i quali combattevano la mafia, Giovanni Falcone in testa. La macchina del fango aveva offuscato anche l'intelligenza dell'autore del Giorno della Civetta. E così, testuali parole di Roberto Saviano durante lo spettacolo televisivo dell'altra sera, anche Sciascia c'è caduto. Colpito. Con una battuta, considerato l'impatto mediatico della trasmissione di Fazio e Saviano, è stato liquidato il senso dell'intera opera di uno scrittore, il quale, ma che importa se poi con un articolo di giornale si è giocato la reputazione, è stato il primo a denunciare la mafia e a suggerirne i mezzi, avendone ovviamente voglia e capacità per contrastarla. Personalmente mi sono stancato di ripetere che Sciascia era per la difesa delle regole, anche quando di mezzo c'era la mafia. Quando nel 1987 sul Corriere della Sera pubblicò il famoso articolo «I professionisti dell'antimafia», non ce l'aveva con il giudice Borsellino, ma con il Consiglio Superiore della Magistratura, che sorvolando sulla prassi dell'anzianità, regola fino allora vigente, nell'assegnazione di una procura, aveva premiato la maggiore esperienza di Borsellino nel campo dei reati antimafia. Prova ne sia che Sciascia non sapeva chi fosse Borsellino prima di scrivere quell'articolo. Caro Saviano, Sciascia era un anticonformista vero, che non aveva paura di dire quel che pensava, se poteva servire alla causa della verità. Sai quanti politici, giornalisti, magistrati, servitori dello Stato a vario titolo, battendosi il petto oggi, professano antimafia, mentre non fanno il loro dovere? E sai quanto questo contribuisca a farla franca di fronte allo sfascio del paese? Facci caso, caro Saviano, quando ti diranno che la mafia, o la camorra, o l'andrangheta, fa allagare i paesi o non fa arrivare i treni in orario. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Matteo Collura, Saviano, Sciascia e la mafia, quella ferita ancora aperta, dal Corriere della Sera del 10 novembre. Letture di Radio 24. Sul disastro che ha colpito il Veneto, la politica e i mezzi di informazione sono intervenuti con vergognoso ritardo. La colpa è in parte della capitale, ma in parte anche del Veneto, come scrive Ferdinando Camon in un commento pubblicato sulla Stampa. Le zone sommerse del Veneto sono tante. Nelle province di Padova, Verona e Treviso, l'acqua è arrivata a 2 metri sopra il pavimento di case, fattorie, aziende, fabbriche. Le persone evacuate sono più di 3.000. Intorno agli allevamenti, gli animali morti galleggiano a migliaia. Ma è stato così fin da subito, quando i fiumi hanno rotto gli argini, il giorno di Ognissanti. E allora, come mai la nazione lo scopre con enorme ritardo? Come mai Bertolaso è venuto il 7 novembre e Berlusconi e Bossi il 9? È questo che offende e fa arrabbiare i veneti. È di questo che si è lamentato il governatore Luca Zaia. Leggevamo i grandi giornali nazionali e sull'alluvione non trovavamo che qualche brandello di cronaca, sepolto nelle pagine interne. Guardavamo i TG e vedevamo sempre la saga di Sara e quella di Ruby, e sulla catastrofe che faceva scappare migliaia di famiglie, solo qualche cenno disinformato o un oltraggioso silenzio. Noi ci aspettavamo di finire in prima pagina o in apertura dei TG. Interessarsi a Ruby vuol dire divertirsi sull'eros dei potenti, e in fondo anche interessarsi a quale corda o cinghia ha strozzato Sara è un atto di morboso voyeurismo. Non venitemi a dire che è una forma di pietà cristiana. E allora la conclusione dei veneti era: noi moriamo, il paese gode. E allora questo non è il nostro paese. Noi non facciamo parte dell'Italia e l'Italia non ci sente come una sua parte. Noi veneti e gli altri italiani non abbiamo la stessa patria. La patria degli altri è l'Italia. La nostra patria è il Veneto. Direte, ma l'Italia in questo momento non ha soldi, Di fronte a una catastrofe, il suo istinto è ignorarla o minimizzarla. Quindi il silenzio dello Stato di fronte alla mega alluvione del Veneto era una forma di autodifesa. Ma no, non è così. Perché le proteste del Veneto sono state due. La prima, l'Italia non ci vede. Le nostre disgrazie non le interessano. Noi anneghiamo e lei si volta dall'altra parte. La seconda, adesso che ha ben visto cosa ci è capitato, non vuole aiutarci. Il governatore chiede 1 miliardo e la protezione civile gli offre 20 milioni. Tra la prima protesta e la seconda è passata una settimana. Nei primi 3, 4, 5 giorni il governatore Zaia non chiedeva soldi, chiedeva attenzione. E non l'ha avuta. L'ha avuta dopo, quando le proteste delle città sono diventate un'altra notizia, che potenziava la notizia dell'alluvione. Il fatto che il Veneto non sia visto dalla capitale dipende da due ragioni, di cui una è colpa della capitale e l'altra è colpa del Veneto. La prima, la capitale è miope, non vede fino alle Venezie. Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, per Roma, sono una giungla inesplorata piena di bestie feroci. La seconda, le Venezie hanno una miriade di giornali cittadini, ben fatti, dalla diffusione capillare, economicamente solidi, ma parlano alle proprie città, non parlano a Roma. Poco o per niente collegato alla nazione, il Veneto e tutto il Nord-Est non sente di farne parte. Si sente fuori. La nazione è un'entità che riscuote le tasse e basta. Una rapinatrice. Poiché una parte delle tasse del Veneto va alle regioni del Sud, il rapporto tra Veneto e Sud è brutto. È peggiore il rapporto con i meridionali che con gli immigrati. Perché gli immigrati non sono una voce delle tasse, sono anzi una voce produttiva. Adesso che il Veneto è in ginocchio, il brutto rapporto col Sud si fa ancora più brutto. In tutte e due le direzioni. Tutti quelli che hanno una carica, piccola o grande, nel Veneto lamentano che Roma guarda sempre al centro e al Sud ed è sempre pronta ad aiutarli. E dal Sud arrivano segnali di scherno. In Facebook è nato un gruppo chiamato Allaghiamo il Veneto pisciandoci sopra, dove qualcuno dotato di spirito poetico ha costruito un messaggio in rima. Speriamo nell'uragano Katrina, che spazzi via ogni ridente cittadina. Il gruppo è stato subito cancellato, ma l'odio resta. Una volta era folklore. Venivano i tifosi del Napoli a Verona e lo stadio li sfotteva. Benvenuti in Italia. Poi i veronesi scendevano a Napoli e lo stadio apriva striscioni di un'irrisione colta. Giulietta è una zoccola. Ma si trattava di sport, adesso si tratta di una disgrazia. Se ridi sull'amico ferito che muore, non sei un amico. Se poi quello non muore, con lui hai chiuso. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Ferdinando Camon, La rabbia dei Veneti, dalla Stampa del 10 novembre. Mentre i decisori politici, governativi e regionali si affannano a non farsi travolgere dalla nuova crisi dei rifiuti in Campania, chi ha un minimo di competenza in materia non può fare a meno di porsi alcune vecchie domande. È possibile che all'inizio del terzo millennio, in uno dei paesi del G8, i rifiuti vengano ancora buttati in un buco, sostanzialmente come facevano i nostri antenati migliaia di anni fa? È possibile che questo buco debba essere ubicato in una delle poche aree scampate allo scempio ambientale, e facente parte di uno dei 23 parchi nazionali d'Italia, come a dire fango sui gioielli? Ed è ancora possibile che, una volta superata la fase delle discariche, si preveda di affidarsi a un inceneritore, cioè ancora una soluzione primitiva? La risposta a tutte queste domande è sempre sì, perché non c'è nessun decisore politico che abbia capito fino in fondo che quella non è la strada, che invece resta la riduzione dei rifiuti all'origine e la raccolta differenziata con recupero di materie prime. Eppure gli imprenditori per far decollare la differenziata ci sarebbero, e ci sarebbero anche le capacità, perfino in Campania. Il comune di Camigliano, Caserta, era arrivato quasi al 70% di raccolta differenziata, mostrando a tutti come anche al sud le buone pratiche possano diventare prassi politica. Indovinate, il consiglio è stato sciolto in agosto per non aver aderito alla provincializzazione della raccolta dei rifiuti. Complimenti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Mario Tozzi Emergenza rifiuti, nuova crisi, vecchi rimedi, da Vanity Fair del 17 novembre.